IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Ogni tanto in questa trasmissione andremo in fabbrica, le fabbriche profondamente cambiate dalle nuove tecnologie. E oggi andiamo in una fabbrica che non c'è ancora, ma non è molto lontana nel tempo. Vi sto parlando di un luogo di lavoro dove l'addetto umano lavorerà a stretto contatto con il suo assistente robot. Assistente e basta, oppure un quasi collega apprendista. Insomma, un soggetto presente con una sua personalità. Andrea Zanchettin, benvenuto. Grazie, salve a tutti. Allora, lei è ricercatore al Politecnico di Milano, docente di controlli automatici e in più con il suo gruppo avete anche fondato uno spin-off dell'università che si occupa appunto di sistemi collaborativi tipicamente in luoghi di lavoro, collaborativi tra uomo e macchina. Allora, io le chiedo questo, senza assolutamente, come dire, costringerla a dirci come stanno le cose, perché siamo sulla frontiera delle frontiere. Allora, i bracci robotici che fanno un sacco di roba, spostano un pezzo di quello, rimettono di là, prendono un qualcosa, a volte anche con quei sistemi ad aspirazione, no? Non hanno le dita, flup, tirano su un componente aspirandolo e lo depositano da un'altra parte. Ormai questa roba la conosciamo, la vediamo da tutte le parti, prima o poi lo vedremo anche nei bar per lavare le tazzine. Mentre invece quello che io vorrei sapere da lei, spostiamoci in avanti, che scenario dobbiamo vedere quando in un luogo di lavoro un umano e un robot si mettono a lavorare insieme? Dovrebbe venirne fuori qualcosa che nessuno dei due è in grado di fare da solo, c'è un valore aggiunto quindi, ma qual è la relazione di tipo uomotico tra robot e sentimentale, com'è che viene a stabilirsi qualcosa che oltretutto mi pare di capire voi anche cercate di creare in modo che la macchina mano a mano apprenda a fare meglio il suo lavoro, no? Ecco, come può essere questo scenario? Quello che ha perfettamente descritto è la rivoluzione che stiamo cominciando a vedere, quella che tutti chiamano industria 4.0, quindi che comprende, esatto, anche la collaborazione tra uomo e robot o in generale macchina. Quindi la differenza sostanziale sta nella presenza dell'uomo a diretto contatto con una macchina automatica. Cosa che sembra banale a dirsi, ma questo comporta una serie di problematiche, perché il robot non opera più in un ambiente circoscritto, come si dice in gergo, strutturato, e quindi deve cercare di capire anche quello che gli sta intorno, che non è fissato a priori e disegnato intorno a lui, ma tipicamente è progettato e disegnato intorno alla persona. Stiamo parlando quindi di robot che si muovono. Non necessariamente, ma che condividono uno spazio con una persona in uno spazio che è disegnato, progettato per la persona. Sì. Quindi non è confinato il robot nella sua cella, ma è di fianco all'operatore. E quindi può essere anche dotato di mobilità, quindi muoversi su ruote, ma può essere anche un banale braccio che però sta gomito a gomito con la persona in un ambito produttivo. Ora, quello che vedo è un paradigma completamente diverso, in cui il beneficio di avere queste due entità, quindi l'entità robotica e l'entità umana, traggono appunto beneficio l'uno dall'altro svolgendo dei compiti che il singolo non riesce a svolgere in autonomia o che comunque sarebbe troppo difficile o troppo faticoso per l'umano o troppo difficile per la macchina. Quindi ci sono dei compiti per i quali la macchina è eccellente perché è più veloce dell'essere umano, e ci sono dei compiti per i quali l'uomo è estremamente più flessibile della macchina, e ci sono poi dei compiti in cui servono entrambe queste peculiarità, per cui la soluzione, diciamo, uomo-robot è quella vincente sicuramente. E sono queste probabilmente quelle più interessanti su cui ragionare, nel senso che se lavorano insieme e c'è una roba pesante da muovere, allora lo fa il robot prima e poi ci lavora l'uomo dopo. Certo. Ma invece possiamo immaginare delle cose in cui fanno proprio insieme delle operazioni? Si vuole andare anche in quella direzione? Ma assolutamente sì, ci sono un sacco di casi in cui l'uomo può essere aiutato dal robot, perché il robot agisce come se fosse un terzo braccio, ad esempio, quindi posiziona e riposiziona al meglio il pezzo sul quale magari l'uomo deve effettuare delle operazioni, ad esempio per tenere conto dell'ergonomia, della postura dell'umano, il robot può essere d'aiuto in questi termini. Mi spieghi meglio, cioè si viene a creare una situazione in cui questo organismo ibrido lavora come se avesse quattro braccia, quindi. O tre o quattro, seconda di quante braccia ha il robot, però assolutamente sì. Così, questo per esempio. Allora, in quel caso effettivamente si sviluppa una potenza che nessuno dei due può avere, però è chiaro che il robot deve riuscire davvero a essere il terzo o addirittura il terzo e quarto braccio. Un'altra cosa invece secondo me ancora più importante, ma che diciamo è un po' un passo oltre quello che oggi è lo stato dell'arte, perché la sicurezza ormai è quasi un fatto assodato, diciamo, è diciamo la percezione che la macchina ha rispetto a quello che sta facendo l'uomo e quelle che sono le sue intenzioni. Quindi di avere, sviluppare una sorta di empatia, cercare di capire, comunicando anche non necessariamente verbalmente con l'operatore, in modo tale che percepisca la macchina quello che l'operatore vuole fare e quello che l'operatore si aspetta che il robot faccia. Qui lei ha toccato un punto che ci crea un'immagine molto interessante. Credo che tutti noi si abbia ben presente quelle situazioni in cui si fa qualcosa in due, no? Certo. Su uno stesso, magari, motore, oggetto, oppure insomma anche quando si fa un trasloco. Uh-huh. E allora c'è uno che dice all'altro: aspetta, tienimi lì così io, no? Tienimi questa parte, tira giù quello che io tiro su quest'altro. E si lavora davvero a quattro mani. Allora, qui per avere efficienza bisogna che l'umano possa proprio parlare con il robot, perché non può schiacciare dei tasti e fargli fare delle cose. Bisogna che ci sia questa capacità di scambio molto rapido, forte e empatico, direi. Secondo me è qualcosa che va ben oltre la comunicazione verbale. Cioè questa è una modalità di comunicazione tra uomo e robot, ma anche tra robot e uomo. In realtà è uno degli strumenti che abbiamo, la comunicazione verbale è uno dei tanti, nel senso che ci sono situazioni in cui il robot, ad esempio, può capire l'intenzione dell'uomo semplicemente osservando le forze che scambia. Ad esempio, supponendo che uomo e robot stiano trasportando un tavolo, le forze che queste due enti si scambiano potrebbero essere sufficienti al robot per capire in che luogo l'operatore, la persona, vuole depositare questo tavolo. Quindi non necessariamente la comunicazione intesa come verbale è uno delle componenti principali che servono, ma direi una comunicazione più ad ampio spettro, quindi una comunicazione, come si dice, multimodale, in cui ci sono una molteplicità di sensi e di metodi di comunicazione, di cui uno sicuramente può essere la parola e il linguaggio naturale. Le chiedo, siamo nella fantascienza, le chiedo infine, in questa direzione qui ci potrà essere, come dire, anche una forte personalizzazione, cioè una certa macchina impara a lavorare con una certa persona? Credo proprio di sì, però come sostanzialmente abbiamo detto è fantascienza, ma sicuramente nella giusta direzione, nel senso che tutti noi siamo diversi, ognuno di noi ha le proprie preferenze, sì. E avendo appunto una modalità non fissa ma una serie di possibili modalità di comunicazione, ovviamente la personalizzazione del modo che ha il robot di comunicare con la persona è sicuramente un aspetto importante. Andrea Zanchettin, grazie e buona ricerca. Grazie a voi, grazie. Senti, mi smonteranno tutto? Ma no, Roby, hai solo avuto un problema al polso del settimo braccio, quando lo spostiamo verso destra. Quel movimento lì non mi è mai venuto bene, ecco. Vabbè, che problema c'è? Ci mettiamo lì martedì e la mettiamo a punto, mettiamo a posto le cose. Hai sentito dell'Angela Maria? La capo 21 della Ferri Gomao. L'hanno smontata tutta, Tutta. Era il tagliando, Roby, niente di più. Era previsto. Non ti smontano, te l'ho già detto. Dai, mi sono informato, no? Giura? Ma sì, giuro. Stai tranquillo. Giura? Sì, non ci sono problemi. Ci mettiamo lì e mettiamo a posto tutto.